GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Le cause dei roghi, la procura di Gorizia indaga su quelli in carso ed emergono i primi indizi sugli inneschi provocati dal transito di treni lungo la linea ferroviaria, ma si raccolgono elementi anche su possibili azioni dolose. Ripreso ma sotto controllo il rogo di Taipana, incendio anche al parco del Cormor di Udine. E in carso la strada del Vallone resterà interrotta fino a quando non saranno abbattuti tanti alberi pericolosi per la circolazione, interventi che potrebbero proseguire fino a domani. Cordoglio dal mondo politico ed economico, regionale e nazionale per la morte improvvisa del direttore del Messaggero Veneto e del Piccolo, Omar Monestier. Sgomento nelle redazioni che dirigeva. Dopo una lunga malattia si è spento Mario Gollino, figura di riferimento dell'industria dell'Alto Friuli. Con la sua azienda 4S aveva tagliato il traguardo dei 50 anni di attività, avviando con successo il gruppo Ondulati e Imballaggi del Friuli. La siccità continua a stringere d'assedio il Pordenonese, gli agricoltori sono sempre più in difficoltà e ora la mancanza d'acqua preoccupa anche gli apicoltori. Varsila monta la protesta in vista dello sciopero di dopodomani con manifestazione a Trieste. Intanto del caso si fa carico anche la presidenza del Consiglio dei Ministri. Dopo il rallentamento degli interventi legati al maxi bonus 110%, segnano il passo anche i lavori legati agli incentivi fiscali per condizionatori e caldaie. Le imprese lamentano sempre più difficoltà nella cessione dei crediti. Mittelfest ha recuperato il pubblico del periodo pre-Covid, soddisfacente il bilancio e si pensa già al 2023. Pregi e difetti della generazione Y, quella dei trentenni, sono i protagonisti dello spettacolo Boiler Room, in programma oggi al Palamostre di Udine. Non siamo in grado di creare contatti e ci ripieghiamo su noi stessi, spiega Xenia Martinovic, ideatrice dell'iniziativa. Le 7:20 di martedì 2 agosto, buongiorno da Maria Spezia e Andrea Cobra in studio per questa prima edizione del giornale radio regionale. Diamo un'occhiata al tempo, la nuvolosità è variabile sulla regione. Queste le temperature registrate alle 6, a Trieste 22 gradi, mare poco mosso con temperatura di 26 gradi e mezzo, a Gorizia e Pordenone 19 gradi, Udine 19 e mezzo, Tolmezzo 18, Forni di Sopra 14 gradi e mezzo, Tarvisio 15, Sappada 13 gradi, Piancavallo 11 gradi e mezzo, sul Monte Lussari 10 gradi e mezzo, Monte Zoncolan 10, tornando sulla costa a Lignano 22 gradi, a Grado 21 gradi e mezzo, temperatura del mare di 27 gradi. Le previsioni dell'Agenzia regionale di protezione ambientale per oggi: cielo in genere variabile sui monti, poco nuvoloso su pianura e costa e maggiori schiarite tra tarda mattinata e primo pomeriggio. Nel pomeriggio saranno possibili locali, rovescio, temporali, non è escluso qualche isolato temporale forte. La previsione è in parte incerta. Ora le notizie: si cominciano a delineare le cause degli incendi che hanno devastato il Carso. I primi sarebbero stati innescati dal passaggio di treni sulla ferrovia, ma le indagini della procura di Gorizia continuano per chiarire eventuali altri inneschi dolosi. Sono già diverse le segnalazioni dei cittadini pervenute alla procura di Gorizia per aiutare a individuare uno o più piromani dietro ai roghi delle ultime due settimane sul Carso. Nei giorni scorsi la scientifica è intervenuta per rilievi su bottiglie di vetro trovate in un'area bruciata. La verifica ha dato esito negativo, non era quello l'innesco. Per l'incendio del 19 luglio, che poi si è propagato tra Medeazze e Iamiano, invece, l'ipotesi più accreditata rimane legata alla ferrovia. Tra gli indizi raccolti, un'immagine del satellite Sentinel, che alle 10:08 registra almeno tre gruppi di fuoco attivi, tutti vicino ai binari. Pochi minuti prima erano passati in zona alcuni treni. Il resto l'hanno fatto le condizioni eccezionali di un'estate calda e secca, con alberi che si trovano in uno stato già quasi autunnale. In questo contesto a San Michele del Carso prosegue il lavoro per spegnere sul nascere le riprese dell'incendio. Paolo Benedetti, Corpo Forestale Regionale. Per quanto ancora sarà così la situazione? Per alcuni giorni sicuramente, di più non sono in grado di dire. Proprio a San Michele è stata trasferita la base incendio che si trovava a Iamiano. La frazione di Savogna di Isonzo è accessibile solo ai residenti. Tutti gli altri possono disturbare le operazioni di spegnimento e bonifica. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Le conseguenze degli incendi in Carso: il tratto chiuso della strada del Vallone non riaprirà oggi e probabilmente nemmeno domani. È quanto stabilito ieri da un vertice coordinato dalla Prefettura di Gorizia con gli enti gestori delle strade, i comuni e le altre parti interessate. Prima andranno abbattuti gli alberi pericolanti ai lati della strada, Per permettere gli interventi, i comuni dovranno emettere un'ordinanza per intimare il taglio ai proprietari dei terreni in questione. In caso di inadempienza dovrà intervenire la Protezione Civile. Cambiamo fronte. A Taipan l'emergenza incendi non è ancora del tutto rientrata. Sul Gran Monte ieri pomeriggio si era nuovamente sviluppata una notevole quantità di fumo a causa di fiamme che si sono ravvivate. Le operazioni di vigili del fuoco, Protezione Civile e Forestale si sono interrotte in serata quando l'incendio era sotto controllo e i vasconi per il rifornimento d'acqua erano stati riempiti, pronti per eventuali nuovi interventi nelle prossime ore. L'allarme incendi ieri ha riguardato anche il Parco del Cormor, l'area verde che si trova alla periferia nord di Udine. Intorno alle 16 ha preso fuoco una fascia di erba alta e secca. I vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente, hanno circoscritto le fiamme evitando che si propagassero sull'altra sponda del fiume. L'intervento si è concluso in un'ora e non è stata ancora chiarita l'origine dell'incendio. Voltiamo pagina. Ha creato grande impressione e sgomento la prematura e improvvisa scomparsa del direttore del Messaggero Veneto e del Piccolo Omar Monestier. Aveva 57 anni ed è spirato nella scorsa notte nella sua abitazione. Lascia la moglie e 4 figli. Hanno gli occhi lucidi, ancora attoniti e increduli i colleghi del Messaggero Veneto del Piccolo per la notizia della morte del loro direttore Omar Monestier. Nato a Belluno il 23 settembre del 64, Monestier aveva passato la domenica in redazione e in compagnia del figlio. Quest'ultimo, non vedendolo arrivare per la colazione, è andato a controllare in camera trovandolo morto. Ha subito allertato la centrale Sores, che ha inviato a Brazzacco, frazione di Moruzzo, dove Monestier abitava con la famiglia, un'automedica, ma il personale non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Fabiano Begal, amministratore delegato Jedi News Network. Omar, col quale abbiamo condiviso credo 15 anni della nostra storia lavorativa, ci ha trasmesso la passione per questo lavoro e la voglia di migliorare sempre. Quindi oggi ci sentiamo tutti un po' orfani. E lo sentiremo ancora per parecchio tempo. Siamo, come azienda, siamo ovviamente vicini anche alla famiglia e ai figli che oggi non hanno più un papà. Paolo Mosanghini, condirettore. Con lui, anche per l'amicizia che si era instaurata, il confronto era sempre acceso, proficuo, quotidiano, e ci dava così anche, lui ogni mattina dava anche una visione mentre leggiamo i giornali assieme, proprio su quella che sarebbe stata anche la giornata da un punto di vista politico o su quali notizie puntare. Monestier divideva il suo tempo tra il Friuli e Trieste dopo aver assunto anche la direzione del Piccolo. È sempre stato apprezzato per le sue grandi capacità professionali e le doti umane. Udine, Giovanni Taormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Da quando aveva assunto la doppia carica di direttore dei due più importanti quotidiani della regione, Monestier si alternava tra Trieste e il Friuli. Dall'inizio del 2021, infatti, era alla guida anche del Piccolo, storico giornale del capoluogo giuliano. Innumerevoli gli attestati e i messaggi di cordoglio. Nato nella sua Belluno e residente a Moruzzo, Omar Monestier era arrivato a Trieste 1 anno e mezzo fa come direttore del Piccolo e si era avvicinato con curiosità ed attenzione alla città e a tutto il territorio, con la voglia di scoprirne la cultura e il modo di vivere anche nei suoi lati più originali e peculiari. Così lo ricordano i giornalisti della redazione di Via Mazzini, con un sorriso nella disperazione e nello shock di una notizia così inattesa, passando senza parole di fronte alla stanza dove sedeva Monestier. Un direttore sempre presente che dalle 6 di mattina alle 10 di sera non abbandonava mai il lavoro, consapevole della storia di un giornale che esiste da 141 anni. Roberta Giani, condirettrice del Piccolo. Omar era assolutamente proiettato verso il futuro e verso il fatto di traghettare il Piccolo comunque non nel 2022 ma nel 2030, nel 2040, nel 2050, con la piena consapevolezza però di tutto quello che c'è stato prima di noi e della storia che questo giornale rappresenta per la comunità di Trieste. Tanti messaggi di cordoglio arrivati da tutta la regione e non solo. Tra i primi a ricordare Monestier, i presidenti delle regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto, Fedriga e Zaia, e i sindaci di Trieste, Udine, di Piazza e Fontanini. Messaggi anche dal mondo della politica regionale e nazionale, da quello accademico e dell'economia e dell'imprenditoria regionale, nonché dal mondo dello sport. Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. È morto a Tolmezzo dopo una lunga malattia Mario Gollino, figura di spicco e riferimento dell'industria in montagna. È stato a capo della delegazione di Tolmezzo di Confindustria Udine dal 93 al 99 e poi presidente del Consorzio di Sviluppo Industriale dal 2016 al 2020. Avrebbe compiuto 80 anni il prossimo 31 ottobre. Gollino aveva festeggiato a fine 2020 i 50 anni dello scatolificio 4S a Venzone, storica azienda da cui è partita l'avventura di successo del gruppo Ondulati e imballaggi del Friuli, da lui presieduto. La figura di Gollino è stata ricordata da Anna Mareschi Danieli, vicepresidente di Confindustria Udine, e da Nicola Cescutti, attuale capo della delegazione di Tolmezzo di Confindustria Udine. Il gran caldo sta per tornare, resta in primo piano l'emergenza siccità. Il mondo agricolo è in allarme. Nel Pordenonese la situazione è più complicata e ora la mancanza d'acqua preoccupa anche gli apicoltori. La grave siccità che sta mettendo in ginocchio l'agricoltura minaccia anche le api. Alte temperature e mancanza di precipitazioni hanno determinato una carenza di fiori e uno stress delle piante che garantiscono la sopravvivenza delle api. Le produzioni estive di miele hanno perdite del 75% e gli apicoltori devono intervenire già ora per soccorrere i propri alveari rimasti senza scorte. Enzo Re è un esperto apistico del Consorzio Pordenonese che raccoglie 450 apicoltori. Il rischio da qui in avanti è che i fiori non ce ne sono e quindi le api in questo momento sono ferme, sono bloccate e non riescono a raccogliere né polline né nettere e quindi non riusciranno a costituire le scorte per l'inverno. Questo comporterà che gli apicoltori devono attrezzarsi un po' per mettere dell'acqua a disposizione, perché comunque anche le api hanno bisogno di acqua per bere e per mantenere la temperatura, e poi provvedere a una somministrazione di sostanze zuccherine in sostituzione del miele e eventualmente necessaria anche la sostituzione del polline con sostanze proteiche. Che comunque non è la stessa cosa. Non è mai la stessa cosa, cioè le api vivono di miele e di polline che trovano dai fiori e che trovano in natura. Quello che possiamo fare noi è comunque un'alimentazione di soccorso, però piuttosto di perdere gli alveari ben venga anche questo. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Alle 7.30 passiamo al mondo del lavoro. Con la crisi Wärtsilä, i lavoratori dello stabilimento triestino del gruppo finlandese confermano le azioni di lotta, incroceranno le braccia per 8 ore dopo domani, giovedì 4 agosto. Lo riferiscono Fjom, Fim e Wilm, che hanno dichiarato lo sciopero in tutti i siti del gruppo e convocato un presidio in piazza della Borsa a Trieste per protestare contro l'azienda finlandese che lo scorso 14 luglio aveva annunciato la dismissione del sito triestino e l'avvio della procedura di licenziamento per 450 dipendenti. Le richieste sono due: ritirare i licenziamenti e mantenere la produzione. E della questione Wärtsilä, la presidente del gruppo PD alla Camera, Deborah Serracchiani, ha discusso ieri con il sottosegretario per le politiche europee alla presidenza del Consiglio dei Ministri, Vincenzo Amendola, che si è attivato nei confronti del governo finlandese, sottolineando alla ministra degli affari europei gli effetti sociali della decisione di Wärtsilä su Trieste. La crisi Wärtsilä, sottolinea Serracchiani, entra così nella sfera di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che coinvolgerà anche le istituzioni europee, sottolineando l'intenzione di Wärtsilä di utilizzare i fondi europei del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Continua anche la protesta dei lavoratori del trasporto pubblico locale. La situazione, dicono, è insostenibile. Dopo il presidio di venerdì scorso sotto la sede della Regione a Trieste, i sindacati chiedono nuovamente all'amministrazione regionale più sicurezza, più assunzioni e miglioramenti contrattuali per gli autisti. Aumento del personale in organico, sicurezza durante i turni di servizio e miglioramento del trattamento economico dei lavoratori. Sono le richieste dei sindacati del trasporto pubblico locale, FILT CGL, FIT CISL, Will Trasporti e FAISA, per far fronte a una situazione che le stesse associazioni di categoria definiscono ormai insostenibile. I ritmi di lavoro sono troppo intensi, con forte ricorso allo straordinario, al taglio delle ferie e al prolungamento dei turni, affermano i sindacati, per coprire la mancanza di personale, e a farne le spese sono anche i cittadini che vedono diminuire le corse. Pochi giorni fa i lavoratori del comparto avevano organizzato un presidio unitario in Piazza Unità a Trieste. Da allora però nessuno dalla regione si è fatto vivo per un confronto, dicono i sindacati, rammaricati per il venir meno di uno spirito di collaborazione costruttivo che aveva contraddistinto gli ultimi difficili anni della pandemia. In realtà, fanno sapere fonti della regione, una richiesta formale d'incontro pare non essere pervenuta, ma si conferma la massima disponibilità al confronto coi lavoratori. Il contratto di trasporto pubblico che la regione ha stipulato col consorzio TPL, viene spiegato, è tale da garantire il numero adeguato di dipendenti e di corse. Intanto in settimana l'assessore al trasporto pubblico Pizzimenti avrà un incontro con la stessa TPL e le quattro aziende consorziate, Trieste Trasporti, Arriva Udine, ATAP e APT, a seguito del quale potrebbe forse svolgersi un incontro anche coi sindacati. Tra le questioni più urgenti, la sicurezza degli autisti, dopo i vari casi di aggressione verificatisi nei mesi scorsi. Finora si è svolto solo un incontro in prefettura a Trieste, ma i lavoratori chiedono un coinvolgimento diretto della regione anche su questo fronte. Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. La Corte Costituzionale ha bocciato nuovamente il parametro di durata di 5 anni della residenza dei lavoratori disoccupati che la Regione Friuli Venezia Giulia ha imposto per modulare gli incentivi alle imprese per le assunzioni. La Consulta ha accolto il ricorso dell'Avvocatura dello Stato, sottolineando come la norma porterebbe a una potenziale discriminazione dei lavoratori a causa della scelta dei datori di lavoro di ottenere il massimo incentivo, generando di fatto una preclusione all'accesso al posto di lavoro a chi è residente da meno tempo. Oltre a violare la parità dei lavoratori, si legge nella sentenza, la norma di fatto sfavorisce la mobilità regionale in quanto penalizza chi, esercitando il proprio diritto di circolazione, si trasferisce da una regione all'altra. Ora i dati della pandemia in Friuli Venezia Giulia tornano ad aumentare su base settimanale, anche se di poco, i casi positivi dopo oltre un mese di curva in discesa. Ieri si sono registrati 324 nuovi casi Covid, 16 in più rispetto a lunedì scorso, su 2.089 test effettuati. Il tasso di positività è al 15,5%, 6, una in meno in 24 ore, le persone ricoverate in terapia intensiva, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 289, una in più. Registrati infine i decessi di 3 persone, una a Trieste e 2 a Pordenone. Riguarda anche immobili situati in regione, oltre che in Veneto e in Lombardia, la frode sul superbonus 110% da 24 milioni di euro, scoperta dalla Guardia di Finanza di Treviso e che vede coinvolto il consorzio Casa Zero di Nervesa della Battaglia. L'ente consortile nel suo primo anno di attività aveva fatto incetta di commesse, stipulando quasi 500 contratti. I riscontri dei finanzieri hanno fatto emergere che per circa 230 contratti nulla è stato concretamente realizzato. Il rappresentante legale di Casa Zero, il presidente, amministratore delegato e un ingegnere sono accusati di truffa aggravata ai danni dello Stato, sequestrati crediti d'imposta per circa 7 milioni di euro e disponibilità finanziarie e immobili per oltre 1 milione. Sono appena usciti i dati di bilancio dei primi 6 mesi dell'anno di Generali. Nella prima parte del 2022 il Leone di Trieste ha segnato un utile netto a 1.402 milioni contro i 1.540 milioni dello stesso semestre dell'anno scorso, dunque in calo. Senza le svalutazioni sugli investimenti russi, l'utile netto si attesterebbe a 1.541 milioni, dunque in linea con quello dello scorso, dello stesso periodo del 2021. Il risultato operativo nei primi 6 mesi del 2022 invece in ulteriore crescita a 3,1 miliardi con un aumento del 4,8% grazie allo sviluppo positivo dei segmenti vita, danni, holding e altri attività. I premi lordi sono in aumento a 41,9 miliardi grazie allo sviluppo significativo del danni, in particolare del non auto, premi quasi stabili nel vita e profittabilità migliorata in entrambi i segmenti. Proseguono gli incentivi fiscali per l'acquisto di caldaie e condizionatori, ma le imprese con sempre più fatica riescono a offrire al cliente lo sconto in fattura. I crediti sono diventati troppi e difficilmente cedibili. È il rovescio della medaglia dei bonus edilizi di questi ultimi 2 anni. In piena estate, nelle settimane in cui il termometro ha sfiorato i 40 gradi, chi vende e installa condizionatori sta osservando uno strano fenomeno. Le persone sono più interessate ad acquistare la caldaia nuova in vista dell'inverno rispetto al condizionatore oggi. Alessandro Minon, titolare impresa condizionatori. Penso che un fattore di preoccupazione sia legato all'incremento dei prezzi in tutti i settori, basta andare a fare la spesa, che chiaramente induce una maggiore prudenza. e l'ulteriore fattore di preoccupazione si è legato a quello che accadrà a ottobre con la riapertura del riscaldamento e l'incremento incredibile che ha avuto il costo del gas. In ogni caso, se oggi voglio un nuovo condizionatore, non lo avrò prima di 4 settimane. La detrazione del 50% c'è per il cliente, che però oggi difficilmente riuscirà ad avere lo sconto immediato in fattura. Molte aziende hanno smesso di farlo, noi a nostra volta lo facciamo onestamente, un po' a malincuore, e cerchiamo di non eccedere per non accumulare una quantità eccessiva di crediti d'imposta che poi non riusciremo a utilizzare. E sono tante infatti le imprese oggi in difficoltà a causa dei vari bonus edilizia. A meno di 2 anni dall'entrata in vigore, ci spiega Luca Serino, commercialista di Trieste che conta tra i suoi clienti molte imprese edili, la legge è cambiata 10 volte. Le imprese sono in difficoltà perché soprattutto all'inizio hanno incominciato ad acquistare il credito verso i clienti tramite il cosiddetto sconto in fattura o la cessione del credito, senza sapere poi se ci fosse stato qualcuno pronto ad acquistare i crediti che loro avevano incassato dal cliente. Questo cosa comporta? Hanno fatturato tanto, avranno tante imposte da pagare, ma come lo pagheranno? Hanno un credito che anche loro possono incassare o diciamo così monetizzare appena in 10 anni, non possono utilizzarlo tutto subito. Trieste, Navitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Il docufilm friulano Langobardi al Boino e Romanza ha conquistato il premio Best Feature Documentary al Festival Internazionale Statunitense Medusa Film Festival, la cui giuria è formata da registi, critici cinematografici e distributori americani. Con questo nuovo riconoscimento internazionale salgono a 21 i premi vinti dalla produzione cinematografica dell'Associazione di Romance di Isonzo, Invicti Lupi. Passiamo allo sport, iniziando dal tennis. Matteo Arnaldi e Gianmarco Ferrari hanno superato il primo turno del torneo internazionale di Cordenons. Sui campi in terra battuta dell'Eurosporting, Arnaldi, numero 215 nella classifica mondiale, si è aggiudicato il derby tricolore contro la quinta testa di serie, Flavio Cobolli. 6-3, 5-7, 6-3, risultato finale di una battaglia durata 2 ore e 44 minuti. La wild card Ferrari, 21enne di Prato, ha invece sconfitto la seconda testa di serie del torneo, l'argentino Juan Manuel Cerundolo, numero 101 della classifica mondiale, con il punteggio di 6-3, 6-7, 6-4. Questa mattina dalle 10 l'inizio del programma delle altre gare del primo turno del singolare e del secondo turno del doppio. Calcio, la Triestina ha lanciato la sua campagna abbonamenti per gli incontri casalinghi della prossima stagione di Serie C. Per i primi 3.000 tesserati i prezzi varieranno dagli 81 euro della curva Furlan ai 135 della tribuna Pasinati, passando per i 108 della tribuna Colaussi. Superata quota 3.000 abbonamenti, i prezzi subiranno un aumento del 10%. Ed ora musica. Il cantautore e chitarrista statunitense Ben Harper è il protagonista di stasera della rassegna Estate di Stelle a Palma Nova. 30 gli anni di carriera dell'artista di discendenza ebraico-afroamericana, noto per aver vinto 3 premi Grammy. I ritmi blues con cui si è fatto conoscere e il suo sapere spaziare dalla musica folk rock fino al reggae gli hanno fatto conquistare numerosi dischi di platino a fronte dei 19 album incisi. Nella città stellata, Harper, insieme al gruppo dei The Innocent Criminals, interpreterà tutti i suoi maggiori successi. Cancelli aperti in Borgudine alle 20, inizio spettacolo alle 20:50 con il Muro del Canto. Ed ora parliamo del Mittelfest di Cividale, che ha riconquistato la presenza di pubblico del periodo pre-Covid e ora prepara la prossima edizione. L'edizione 2022 di Mittelfest, dal titolo imprevisti, ha attratto un numero di presenza in linea con quelle del 2019. Soddisfatto il presidente del festival, Roberto Corciulo, l'occupazione era del 73%. Il pubblico, evidenzia ancora Corciulo, era eterogeneo per età e provenienza geografica. In risposta quindi a un cartellone disegnato dal direttore artistico Giacomo Pedini, che alla centralità della parola ha preferito eventi dal vivo composti da linguaggi più universali quali la musica, la danza e il circo. A partire dalla programmazione che è stata pensata in modo stratificato così da poter toccare pubblici differenti incrociando esperienze di spettacolo dal vivo diverse. Mi porto dietro un'immagine, lo spettacolo che ha aperto il progetto Famiglia, Cucù di Anatolia Kerman, era al Teatro di Stori un vero pullulare di persone da paesi diversi, si sentivano proprio le lingue incrociarsi e questo ritrovarsi comune, grandi e più piccoli, di fronte ad un meraviglioso lavoro di clownerie e di gioco. Il direttore artistico Giacomo Pedini, che rimarrà in carica fino al 2026, non ha voluto svelare ancora i contenuti della prossima stagione, che si svolgerà dal 21 al 30 luglio 2023. Certo è che sarà riconfermata e probabilmente rafforzata la formula del progetto Famiglia, con spettacoli e laboratori connessi, che hanno attratto 570 persone. Direttore e presidente sono anche convinti della carica creativa che arriva da Mitteljang, che l'anno prossimo si svolgerà dal 18 al 21 maggio. Cividale, Nada Choc, TGR, Friuli Venezia Giulia. Si intitola Boiler Room, la performance che propone una riflessione sulla cosiddetta generazione Y, composta da trentenni e caratterizzata dal ripiegamento su se stessa. L'iniziativa è ispirata agli spettacoli di genere techno, ripresi da una telecamera fissa che inquadra il DJ e chi danza dal vivo alle sue spalle, diventando parte integrante dello spettacolo in streaming. L'appuntamento, che si avvale della coreografa Matilde Cerone e dell'attrice Xenia Martinovic, è in programma a Udine, nel parco esterno del Teatro Palamostre, alle 21.15. Abbiamo intervistato Martinovic per chiederle quale messaggio intende trasmettere con Boiler Room. Questa è una riflessione, appunto, che parte dal fatto di quanto non siamo capaci di stare veramente nella collettività, che è un paradosso, essendo noi la prima generazione veramente connessa con il mondo, perché siamo proprio quelli che nell'era tecnologica iniziano ad avere, appunto, internet, siamo la World Generation Web, no? Quella della connessione, che però in qualche modo è diventata molto solitaria, molto individuale. Questo a cosa si deve, secondo lei? Diciamo che il fatto di essere un po' a metà, proprio rispetto alle tecnologie, di essere nati in un mondo dove i cellulari ancora non esistevano, e poi questa velocità e questo cambiamento così veloce che ha fatto la tecnologia, ha fatto sì che noi ci siamo trovati in mezzo ad un mondo che un po' l'abbiamo creato, ma nel quale in realtà non sappiamo stare, mentre invece i nativi digitali, quindi la nuova generazione che conosce molto bene il mezzo perché è proprio nata con quel mezzo in mano, ha totalmente un'altra visione sia della collettività che del mondo. Noi è come se non abbiamo attraversato una vera, se vogliamo dire, rivoluzione come magari la intendiamo ancora oggi. Per dire, per esempio, il Friday for Future è nato dalla generazione Z, che è dopo di noi, quindi proprio i giovani di oggi. E secondo me questo è il problema di questa tecnologia, che è un po' arrivata a metà nel nostro percorso di crescita. A Udine il Festival Internazionale di Musica e Territori nei Suoni dei Luoghi prosegue con il concerto del Trio di Parma, ensemble cameristico formato da Alberto Miodini, Ivan Rabaglia e Enrico Bronzi, in programma musiche di Schumann e Brahms, stasera nella corte di Palazzo Morpurgo alle 21. Alle 7.46 apriamo la nostra rassegna stampa con il Piccolo di Trieste che, assieme, come vedremo, al Messaggero Veneto, dedica la prima pagina alla scomparsa del suo direttore Omar Monestier, ricordato anche sulla stampa nazionale con articoli su Repubblica, La Stampa e Il Corriere della Sera. Grazie direttore, il saluto su una grande foto di Monestier accompagnata di spalla dalle riflessioni dell'editore, il presidente di Jedi Journal Khan, del direttore editoriale Massimo Giannini e dei condirettori dei due quotidiani Roberta Giani e Paolo Mosanghini. Oltre ai tanti messaggi di cordoglio, le altre notizie in prima pagina sul Piccolo riguardano le divisioni tra le forze politiche triestine in consiglio comunale sulla mancata nomina di un direttore per i musei civici e l'ingresso nella rete nazionale delle dimore storiche di Villa Margherita, storica abitazione e atelier della pittrice Alice Psacaropulo sul Colle di Scorcola. Tra i temi in primo piano nelle pagine interne un primo bilancio degli incendi in Carso, salgono a 4.000 gli ettari di bosco andati in fumo sull'altipiano e il titolo titolo di un approfondimento che riferisce del lavoro che prosegue per arginare incendi e fumarole. E l'assessore regionale alla protezione civile Riccardi dice: per ripartire serve un approccio multidisciplinare. Nelle cronache di Trieste la novità che riguarda il trasferimento del mercato ittico: c'è la delibera comunale che sancisce l'opzione favorevole a trasferire l'attività in Carso alla stazione di Prosecco. Apertura e fotonotizia del Messaggero Veneto sono identiche a quella del Piccolo per la scomparsa di Monestier, e in tema compare anche un servizio con il cordoglio di Confindustria Udine. Nell'interno il rapporto dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale sulla cementificazione del suolo, che in regione registra un incremento di 98 ettari, con un dato pro capite superiore alla media nazionale di 362 metri cubi per abitante, ma è 6 volte inferiore al Veneto. Altro approfondimento, quello sulla diffusione della rete 5G di trasmissione telefonia mobile, necessaria per lo smart working, già attivi sul territorio oltre 400 impianti. Nell'edizione di Udine compare un reportage sull'aumento dei turisti in città che spesso scelgono la bicicletta come mezzo di spostamento. Il Gazzettino apre sul rapporto dell'AIE, dell'Associazione per l'Educazione Demografica, relativo al crollo della natalità dovuto alle incertezze economiche e professionali in cui si trovano le donne. Fotonotizia per i 30 anni del servizio dell'elisoccorso. Nell'edizione di Udine del Gazzettino si legge poi un'inchiesta sul 30% di allievi stranieri in 39 istituti dell'area udinese, con il rischio di avere classi ghetto in alcune scuole elementari. La prima pagina dell'edizione isontina del Piccolo riporta la notizia di una sentenza pilota della Corte Costituzionale per la cittadinanza agli stranieri. Un'istanza presentata da una donna ucraina residente a Monfalcone ha portato la Consulta a stabilire che gli stranieri possono ottenere la cittadinanza italiana anche se i propri congiunti italiani vengono a mancare durante l'iter del procedimento amministrativo. Argomento che apre le cronache da Monfalcone con un approfondimento sulla decisione che può sbloccare tante pratiche in attesa. In prima pagina sul Piccolo di Gorizia e Monfalcone anche le nuove mostre al Parco Viatori di Gorizia che attirano i turisti. Il Parco Viatori verso vero traino turistico con le mostre di Custerle e Orsoline, si legge in apertura delle cronache da Gorizia. In 4.000 nel gioiello della Fondazione Carigò, buoni i numeri a Palazzo Attems e Palazzo Coronini. L'edizione di Pordenone del Messaggero Veneto dà conto sull'imminente trasloco del 118 che creerà nuovi spazi per il pronto soccorso ora in pressione a causa dell'aumento dei pazienti. Il progetto è contenuto nel rendiconto trimestrale presentato dall'ASFO, l'azienda sanitaria Friuli Occidentale, in cui sono previsti tempi brevi per l'iniziativa. Il Gazzettino di Pordenone informa sull'intenzione dell'amministrazione di realizzare lo stadio cittadino nella parte nord della città, al confine con Roveredo. Manca però la disponibilità finanziaria al progetto, per il quale si parla del coinvolgimento di un privato, al momento non presente, oppure della ricerca di fondi di provenienza del PNRR. Dalla pagina di Sacile, i quasi 9.000 euro stanziati dal Ministero per i beni e le attività culturali per l'acquisto di libri per la Biblioteca Romano della Valentina. Dai quotidiani nazionali, sulla Stampa è presente un reportage politico svolto tra i manovali di Fincantieri a Monfalcone, che ora si dicono attratti dalle proposte delle destre e si dicono intolleranti nei confronti degli stranieri. Alle 7.51 torniamo agli appuntamenti. A Trieste parte oggi il ciclo Archeologia di Sera, giunto all'ottava edizione con appuntamenti programmati tutti martedì di agosto. L'ABC dei geroglifici, breve introduzione ai segni geroglifici, è il titolo del primo appuntamento, incentrato sulle tre stele conservate al Museo d'Antichità Winckelmann, con un intervento musicale e componimenti di Georg Friedrich Händel. Appuntamento a Trieste nel giardino del museo in piazza della Cattedrale alle 20.30. E sempre a Trieste, serata inaugurale oggi per la sesta edizione del Festival a Prodi, in calendario fino al 6 agosto, è dedicato quest'anno ai 90 anni di Freaks, capolavoro cinematografico di Todd Browning dedicato al tema della diversità. La manifestazione multidisciplinare di teatro, danza, musica e cinema, diretta da Lorenzo Acquaviva, quest'anno si svolgerà al Castello di San Giusto, al Mercato Coperto, al Giardino Pubblico, alla Chiesa Luterana Evangelica e al Museo Revoltella, oltre che a Gorizia, a fronte di 8 eventi. Oggi di scena il concerto della musica ska e reggae dei triestini Macaco Jump, al Castello di San Giusto, alle 21. Secondo appuntamento per la rassegna L'estate in montagna del Teatro Verdi di Pordenone, Slegati, il titolo della rappresentazione, che racconta la storia vera degli alpinisti Joe Simpson e Simon Yates e del loro sogno, quello di essere i primi al mondo a scalare il monte peruviano Siula Grande dalla parete ovest, a Clauta, Casera Casavento, alle 18. Per Visio Jazz, le voci e le chitarre del Miriam Foresti Duo renderanno omaggio a Tom Waits e Bob Dylan a Udine al Garden del Visionario alle 19. Inizia a Cividale il programma di concerti dei corsi internazionali di perfezionamento musicale, in programma il quintetto per archi 516 del catalogo Köchel di Mozart al Monastero di Santa Maria in Valle alle 21. Le melodie zigane del Domus Musicae Quartet, protagoniste del nuovo appuntamento del ciclo Carni Armonie, nel concerto Klezmer Melodies ad Ampezzo, nella chiesa della Beata Vergine del Rosario, alle 20.30. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11, con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. Alle 11.10 spazio alla letteratura friulana del secondo Novecento. A seguire, a tutto beat, l'appuntamento radiofonico dedicato alle nuove tecnologie. In questa puntata si parlerà della situazione attuale e del futuro delle energie rinnovabili e di come rendere fruttuosa l'attività su YouTube. I programmi regionali torneranno poi alle 14. Alle 7.54 si chiude questa prima edizione del giornale radio regionale, redatta e condotta in studio da Maria Spezia e Andrea Covre. È andata in onda grazie alla collaborazione tecnica di Andrea Fontanotte e Tommaso Vidoni. In redazione ha collaborato Daniela Sossi. Torniamo insieme alle 11.05 con il nostro flash, poi alle 12.30 un nuovo giornale radio regionale. Grazie per essere stati con noi, buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.